you see come ti trovo cambiata. Sei forse un po' dimagrita. Lo swing non l'hai lasciato, vero? Oh cara Lucy, però ne hai fatta di strada. Avrai sofferto un po' la fa. Tutto l'oro del mondo pur di trovarti un giorno proprio qui al giro tondo, sapere che pensavi proprio a me. Così spesso mi mette un po' a disagio ed anche un brivido addosso. Sapore di cose andate.